Max 24, la storia. Domenica 7 marzo 1861. Una carrozza arriva a Torino dopo un lungo viaggio. Al suo interno un personaggio che ha fatto, non meno di Garibaldi e di Cavour, la storia dell'Italia appena unita. A scendere dalla carrozza è un deputato appena eletto al nuovo Parlamento italiano. Il suo nome è diventato uno slogan. Le sue opere hanno scaldato i cuori dei patrioti negli ultimi 30 anni. È Giuseppe Verdi. Al suo ingresso i deputati si alzano in segno di considerazione e di stima. Qualcuno grida «Viva Verdi!», che è anche «Viva Vittorio Emanuele, re d'Italia!». Ed è l'appassionata giovinezza degli uomini e dei patrioti a sognare prima e a costruire dopo l'Italia che noi abbiamo ricevuto in eredità. È Giuseppe Verdi che nel XIX secolo è una vera icona popolare, conosciutissima e amatissima, diventa uno dei protagonisti di quella stagione eroica chiamata Risorgimento. Patriota fervente, il cigno di Busseto, come veniva soprannominato, crea capolavori di un'arte che non vuole solo stupire e divertire, ma anche plasmare una forte coscienza morale e civile. E allora questa storia comincia a Milano, nella primavera di un anno fatale, il 1848. Sparate, sparate! Milano, 18 marzo 1848. La città insorge contro gli austriaci e instaura un governo provvisorio. Qualche settimana prima, a Londra, Verdi incontra Giuseppe Mazzini, di cui è un grande ammiratore. Mazzini gli propone di comporre un inno nazionale sui versi di Goffredo Mameli, Il grido di guerra. Verdi, eccitato dalle notizie che giungevano a Parigi, dove si trovava in quei giorni, scrive al suo librettista Giuseppe Maria Piave. Non c'è, né ci deve essere, che una musica grata alle orecchie degli italiani del 1848. La musica del cannone. Quella di Verdi dunque è una creatività inscindibile dalla passione politica. Nei giorni in cui sta per nascere la Repubblica Romana, Verdi presenta al Teatro Argentina la Battaglia di Legnano, una delle sue opere di più alta ispirazione patriottica. Ma quasi tutte le opere di Verdi in quel periodo vengono sentite come anti-austriache, non solo dal pubblico, che è sempre più attento e numeroso, ma anche e soprattutto dalla censura. Anche la musica, insomma, diventa così un sogno di libertà. E le note di Verdi diventano lo strumento per dare voce all'anelito di un popolo intero. Il lamento degli schiavi ebrei nel Nabucco, il famoso coro di Va Pensiero, diventa il canto degli esiliati italiani all'estero. Andato in scena per 57 volte in 4 mesi, l'opera, dal 1842, è un inno alla libertà e all'Italia come patria. Il Nabucco è il primo grande successo. Verdi si afferma e si fa conoscere a Milano e poi in Europa. Daniele Gatti, direttore d'orchestra. Certo, il Verdi del Nabucco è un Verdi naif. È un Verdi che scrive Va Pensiero senza pensare a un anelito di libertà. Scrive per il popolo ebreo. Nabucco è già la terza opera che Verdi presenta alla Scala di Milano. Dopo il suo esordio nel 1839 con Loberto, conte di Bonifacio, che ha riscosso un buon successo, il gestore del teatro, Bartolomeo Merelli, ha deciso di offrire a Verdi un contratto. Merelli stila con Verdi un contratto per 3 opere e la prima dovrebbe essere un'opera comica, ma si rivela un fiasco solenne e Verdi decide di abbandonare la scena. Ma non è solo il fiasco della sua seconda opera a far precipitare il giovane Verdi in un periodo cupo e di sconforto. Tra il 1839 e il giugno del 40, infatti, A Verdi muoiono di febbri fulminanti prima i due figli piccoli e infine la moglie Margherita Barezzi. All'improvviso tutto intorno a lui sembra crollare. Margherita, che era la figlia del suo protettore e mecenate Antonio Barezzi, aveva condiviso con Verdi la decisione di abbandonare la cittadina di Busseto nei dintorni di Parma e trasferirsi a Milano in un modesto appartamento vicino a Porta Ticinese dopo essersi sposati nel 1836. La perdita di tutta la famiglia sembra interrompere per sempre tutti i sogni e le aspirazioni di Giuseppe Verdi, ma la vita, ancora una volta, lo sorprende. Una sera d'inverno mi imbatto in Merelli, nevicava a larghe falde, ed esso, prendendomi sotto braccio, mi invita ad accompagnarlo al camerino della Scala e mi racconta di un nuovo libretto scritto dal Solera. Rincasai e con un gesto violento gettai il manoscritto sul tavolo. Ma senza sapere come, i miei occhi fissarono la pagina che stava a me innanzi e mi si affaccia questo verso: «Va pensiero sull'ali dorate». Una nuova chance per Giuseppe Verdi, a offrirgliela Bartolomeo Merelli, impresario intelligente e generoso. Per il maestro è l'occasione che cambia una vita intera, che trasforma un giovane valente musicista nell'autore italiano più famoso del secolo. L'umile casa dove è nato Verdi, alle Roncole, frazione di Busseto. Il padre di Verdi è un piccolo commerciante che sa leggere e far di conto. L'aspirazione della famiglia e del suo protettore è quella di farlo diventare l'organista di Busseto e il maestro di cappella locale. L'idea che sarebbe diventato poi Giuseppe Verdi non potevano averla. I suoi concittadini lo considerano un ragazzo prodigio che dà lustro al paese e per questo non apprezzano i suoi viaggi a Milano né tantomeno l'intenzione di trasferirsi. I filarmonici di Busseto, nel rifacciarmi i benefici avuti dalla patria, giunsero ad atterrirmi con le minacce e persino a obbligarmi a restare a Busseto. Se il mio benefattore Barezzi non avesse a soffrire per me l'odio quasi generale del paese, io sarei partito subito. Verdi arriva a Milano e trova una città in pieno fermento culturale e politico. Milano era stata non solo la capitale della Repubblica Cisalpina, ma anche la capitale della Repubblica Italiana, la capitale del Regno Italico sotto Napoleone Bonaparte e sotto l'imperatore Napoleone. Mix 24, la storia. Rieccoci su Radio 24, dove stiamo raccontando la storia di Giuseppe Verdi. Nel 1832 il maestro si trasferisce a Milano, dove la sua carriera subisce una prima battuta d'arresto. Così il musicologo Pierluigi Petrobelli. A Milano c'è l'episodio famoso della sua domanda al conservatorio che viene respinta per questioni di mani del pianoforte e lo studio del contrappunto che il giovane Verdi fa con Vincenzo Lavigna, maestro al cembalo, al Teatro La Scala, da più di 30 anni. Mozart, Haydn, Beethoven dunque, ma anche Rossini, Bellini e Donizetti, e poi Manzoni e gli illuministi milanesi, e infine Byron, Schiller e Victor Hugo. È il bagaglio culturale con cui il ragazzo di Busseto arriva al trionfo del Nabucco il 9 marzo 1842, superando gli anni duri della crisi, continuando a suonare, leggere, studiare. Molto talento sicuramente, ma anche incontri fortunati. Determinante per il suo successo è quello con la soprano Giuseppina Strepponi, che subito conquista il cuore del maestro. Nell'aprile del 1843, A Parma, Verdi annulla tutti i suoi impegni per 3 settimane per stare al suo fianco nelle repliche del Nabucco. Giuseppina ebbe una grande influenza su Verdi perché era una donna estremamente intelligente e con una sua cultura. Il fatto di avere a fianco una donna come lei costituì uno stimolo molto potente, doveva essere una donna con cui poteva avere un dialogo molto intenso. Scrivendo a Giuseppina, Verdi metterà un sigillo sulla busta. Questa lettera la metteranno sul mio cuore quando mi seppelliranno. È l'altra faccia del Risorgimento, dall'eroismo al romanticismo. Giuseppina Strepponi segna l'inizio di una nuova fase della vita di Verdi. Nabucco consacra il maestro come il musicista più amato di una stagione di impegno politico e di lotta contro gli austriaci. Ma una nuova melodia infiamma gli animi degli italiani che si battono per la libertà. È in questo clima di entusiasmo che a partire dal 1844 Verdi comincia a produrre in modo frenetico. 10 opere in 5 anni, oltre alle produzioni di musica strumentale. Le persone che gli sono vicino arrivano a temere per la sua salute e lui stesso li definisce gli anni della galera. Così Fabrizio Della Seta, storico della musica, e il soprano Katia Ricciarelli. Dunque, questa espressione fu usata da Verdi una volta in una lettera e disse: dall'epoca del Nabucco non ho avuto più un attimo di pace, 16 anni di galera. E intendeva dire che aveva lavorato come un forsennato senza un attimo di respiro. Non so, Attila, il Corsaro stesso, le sue prime opere sono dei capolavori, l'Aroldo, la Giovanna d'Arco. Per esempio nei Due Foscari c'era sempre l'ingresso di Lucrezia, sottolineato da un motivo, para papara papara papara papara papara papara, ed era lei che avanzava sempre con quest'ansia. Continuo a dire che di lui mi è sempre piaciuto questo impeto, questo entusiasmo, questa semplicità anche giudicata a volte banale, insomma. La grandezza di Verdi è quella di aver realizzato in musica l'equivalente del grande dramma moderno. Verdi traccia l'opera dalla prima scena all'ultima, dalle prime parole del personaggio fino alla fine, cosa assolutamente inconcepibile per qualsiasi altro compositore italiano prima di lui. Ancora Daniele Gatti e Fabrizio Della Seta. Lui cerca quella che definisce, che lui chiama la parola scenica. Quindi i libretti di Verdi sono degli esempi di condensazione di un fatto drammatico. Si pensa generalmente a un compositore come ispirato nella fantasia e che così. Con Verdi non è mai così. Verdi deve avere chiaramente il modello teatrale, cioè il libretto, scritto in quasi tutte le sue parti, prima ancora di scrivere una nota. Il carattere personale della concezione verdiana è quella di far diventare la musica teatro. Verdi si è definito lui stesso non un musicista ma un autore di teatro, un uomo di teatro anzi, e il suo fine non era quello di creare delle belle melodie, ma di creare delle melodie che fossero funzionalmente drammatiche, che servissero all'espressione di un dramma. Aveva le sue idee con i cantanti. Devono essere anche attori. Non basta cantare. Ci vuole la voce per cantare, ma anche un po' di cuore, di cervello, per interpretare i suoi personaggi. Così il soprano Ricciarelli. Voce verdiana vuol dire, secondo me, il fraseggio, i chiaroscuri. Non occorre avere una voce enorme, una voce roboante. No, occorre sapere interpretare tutto quello che vuole l'autore, il testo, e avere tutte le qualità che sono il legato, appunto il fraseggio, come dicevo, che esprima bene i recitativi. E i colori, era veramente esigente in questo, ecco, drammatico se vogliamo. Santo Dio, gridate tutti come dei matti, come dei matti! E ve l'ho già detto un mucchio di volte che non dovete gridare, un mucchio di volte! Ho detto no! È buio, è notte, lo volete capire sì o no che è notte? Come ve lo devo spiegare? Suoni lei. Giuseppe Verdi è uno straordinario musicista che è anche regista e drammaturgo, che crea melodie immortali e sa scegliere con cura i libretti delle sue opere. Così la grande letteratura europea, che proprio in quegli anni conosce i capolavori di Schiller, di Victor Hugo, di Manzoni, di Dumas, entra da protagonista nella poetica di Verdi. Eppure, quasi per una beffa del destino, le trionfali esecuzioni delle opere di Verdi sono contemporanee alle pagine più amare del Risorgimento italiano. La resa di Carlo Alberto agli austriaci con l'entrata del maresciallo Radeschi a Milano, l'ecatombe dei patriotti nella difesa della Repubblica Romana, l'esilio di Garibaldi e Mazzini sembrano spegnere le fiamme del Risorgimento. E proprio mentre il sogno di libertà e di un'Italia unita sembra affievolirsi, Verdi conosce il trionfo popolare e mondiale. Sono gli anni delle sue opere più famose, il Rigoletto, il Trovatore e la Traviata. Così racconta lo storico Lucio Villari. Verdi certamente rielabora un po' le sue idee precedenti entrando più nel privato, cioè vicende che secondo me toccano sempre un elemento di libertà e di ribellione, però queste idee germogliano poi nel privato, nelle figure singole di personaggi e hanno una loro pericolosità per la censura. Ho scelto proprio questo soggetto perché presenta queste qualità. Se le rigettano, io non so farvi più musica, ecco. Affatto. Tratto dal dramma Les Rois Amuse di Victor Hugo, un testo che ha fatto innamorare Verdi, il Rigoletto scatena la censura a Venezia. Gli austriaci bloccano l'opera per quasi un anno. Così il musicologo Pietro Belli. Quella per me pari sono a quant'altre d'intorno mi vedo, nel mio cuore l'impero non cedo, meglio ad una che ad altra beltà. Il contatto più importante è stato quello con la poetica di Victor Hugo, la poetica del grottesco, secondo la quale un autore di teatro può mettere insieme episodi seri e episodi comici, e noi pensiamo subito a una figura come Rigoletto, che è, come dice Verdi, esternamente ridicolo e difforme e internamente appassionato e pieno d'amore. Molto interessante il rapporto che c'è, Verdi e l'amore filiale, per esempio, prendiamo l'Aida, Monasdro e Aida, c'è quel duetto straordinario, poi c'è il Trovatore, la Azucena, che poi si chiamava Azucena in origine l'opera, non il Trovatore. A Venezia, il 6 marzo del 1853, la prima della Traviata raccoglie critiche e molti fischi. Caro Muzio, la Traviata stasera fiasco. La colpa è mia o dei cantanti? Il tempo giudicherà. La Traviata in realtà non fu veramente un fiasco come si racconta. Certo non fu un grandissimo successo, fu accolta freddamente la prima sera e poi nelle sere successive fu capita meglio ed ebbe un discreto successo. D'altronde fu replicata ben 9 volte, le opere che facevano fiasco venivano ritirate immediatamente e sostituite con un'altra opera. Viviamo negli eti carici che la bellezza infiora, e là fuggevo l'ora, si ne triado lutta, liviam dei dolci fremiti che suscita l'amore, poiché parla molto del fatto che Verdi abbia voluto nella Traviata mettere in scena i suoi sentimenti e la sua situazione personale nei confronti di Giuseppina Strepponi, che a quell'epoca non era ancora nemmeno sua moglie, convivevano ma si sposarono soltanto alcuni anni più tardi, e lei aveva avuto dei figli illegittimi in epoca precedente. Ora bisogna dire che nel mondo teatrale queste situazioni non erano affatto infrequenti, le cantanti erano donne che giravano il mondo da sole e quindi era abbastanza normale che avessero delle relazioni e spesso anche dei figli. A quei tempi lì è stata una cosa sconvolgente, insomma, perché scandalizzò parecchio. Però lei si sacrifica poi per Alfredo, e una delle frasi più belle che c'è: ma com'è possibile essere amata amando? È una cosa straordinaria questa che dice. La trilogia popolare è un'espressione che oggi si tende a non usare più, anche perché non si capisce bene che cosa voglia dire. Se si intende dire semplicemente che queste tre opere, Rigoletto, Trovatore e Traviata, sono le più popolari, che sono le più note, questo è vero, un dato di fatto, ma se invece si vuole intendere che queste opere hanno un carattere popolare intrinseco più di altre precedenti o successive, questo è semplicemente sbagliato. La Traviata non ha niente di popolare nel senso di popolaresco. Verdi è un lirico che non si astrae dalla coscienza della realtà. Mette in scena le sue passioni e unisce la musica colta al sentimento popolare. La sua fama esplode. Le arie del Rigoletto, del Trovatore, della Traviata mandano in delirio il pubblico nei teatri. Mix 24. La storia. Rieccoci su Radio 24 con la musica e la storia di Giuseppe Verdi, che è al culmine del suo trionfo. Da Milano a Roma, da Napoli a Londra e Parigi, la musica di Verdi riempie le sale e il maestro stesso segue le tournée in Italia e nelle principali capitali europee. Così il giovane direttore d'orchestra Andrea Battistoni. Credo che una delle prove della genialità di Verdi stiano sicuramente nell'essere riuscito a combinare questo grande senso di comunicativa e quindi questa vena melodica tutta italiana estremamente dirompente con la sperimentazione su quello che è il teatro d'opera. Il connubio di queste due cose rende Verdi uno dei compositori cardine del melodramma non solo italiano ma sicuramente internazionale. In questi anni qualcuno pensa che il maestro voglia abbandonare l'Italia per trasferirsi definitivamente a Parigi. Ma Verdi risponde: non mi passa neanche per l'anticamera del cervello. Io amo troppo il mio deserto, il mio cielo, e non cavo il cappello né a conti né a marchesi, a nessuno. Il rientro in Italia non è dei più felici. A Venezia, nel marzo del 1857, la prima del Simon Boccanegra è un fiasco, mentre a Napoli i Borboni censurano un ballo in maschera che infatti debutta a Roma. Alla fine del 1859, Verdi decide di ritirarsi in campagna nella tenuta di Sant'Agata, vicino al Po, che ha comprato 10 anni prima, e di regolarizzare col matrimonio la sua relazione con Giuseppina Strepponi. Verdi è così stanco, saturo, disgustato del teatro, che ci sono molte probabilità che dica per la scena quello che Rabelais disse nei suoi ultimi istanti della vita. Abbassate il sipario, la farsa è terminata. Dunque un Verdi provato e stanco medita il ritiro definitivo nella sua tenuta di Sant'Agata. La seconda guerra d'indipendenza arriva fino alle porte della sua casa di campagna, quando nella sanguinosa battaglia di San Martino Vittorio Emanuele II sconfigge gli austriaci. L'anno successivo a Teano Giuseppe Garibaldi, l'eroe dei mille, consegna le sue vittorie al re d'Italia. L'Italia è finalmente unita e in quell'Italia per Verdi si profila un ruolo nuovo. Anche il Ducato di Parma si è dissolto. Il 17 settembre del 1859, Verdi, insieme ad altri, va a Torino a riconsegnare formalmente i territori ai Savoia. È in quell'occasione che incontra Camillo Benso, conte di Cavour. Cavour vuole convincerlo a presentarsi alle prime elezioni per il Parlamento. Le sue parole testuali: so che le chiedo cosa per lei grave e molesta. Se ciò malgrado insisto è perché reputo la sua presenza alla Camera utilissima. Essa contribuirà al decoro del Parlamento dentro e fuori l'Italia e lo imporrà ai nostri immaginosi colleghi della parte meridionale d'Italia, suscettibili di subire il genio artistico più assai di noi abitatori della fredda Valle del Po. Poi però la forza del destino riporta Verdi alla sua vera passione. E proprio quest'opera, La forza del destino, che debutta nel 1862 a San Pietroburgo in Russia, segna il suo ritorno alla lirica. Ormai il maestro ha abbandonato la politica, tornando esclusivamente a comporre. Dopo il Ballo in maschera, fino all'Otello non ha più composto nessuna opera per i teatri italiani, perché i teatri italiani non erano più in grado di garantire né quel tipo di messa in scena che lui auspicava e anche non erano in grado di pagare le somme che a quel punto lui era in grado di pretendere per la composizione di una nuova opera. Fino all'Unità Verdi ragionava come un musicista italiano, le cui opere poi sarebbero state esportate tale e quali dai cantanti italiani. Dopo l'Unità ragiona come un musicista europeo e mondiale. Nonostante il trionfo del Don Carlos, il 1867 è un anno nero per Verdi. Prima la morte del padre, poi lo screzio con Mariani, un giovane e promettente direttore d'orchestra che cercherà di rubargli in ogni modo la scena. E infine una passioncella per una cantante tedesca, Teresa Stolz, che creerà una difficile crisi coniugale con Giuseppina Strepponi. Il Requiem nasce come omaggio del patriota Verdi a quello che lui reputa il più grande rappresentante della tradizione musicale italiana, cioè Gioachino Rossini. Verdi chiede di scriverla insieme ad altri musicisti, ma il progetto non va in porto. Nel 1873 la morte del compatriota Alessandro Manzoni lo addolora molto e con la sua musica il maestro gli rende omaggio. Così Fabrizio Della Seta e il baritono Renato Bruson. Il fatto che Verdi abbia voluto dedicare una messa da Requiem alla memoria di Manzoni a un anno dalla sua scomparsa è un omaggio non tanto alle idee di Manzoni, tantomeno alla religiosità di Manzoni, quanto a ciò che Manzoni rappresentava per la storia d'Italia. È trascinante per me, penetra dentro e dà un'emozione enorme e si sente che lui non è mai stato, secondo me, un bigotto, però in questa musica c'è un'ispirazione eccezionale, una sensibilità che solo lui in questo frangente poteva avere. L'Europa è travolta da una nuova idea musicale che sta cambiando radicalmente l'opera. È l'arte totale di Richard Wagner. A Verdi la musica di Wagner non piace, eppure raccoglie la sfida e a quasi 70 anni si rimette in gioco. Io credo che una delle prove della genialità di Verdi sia anche l'umiltà con cui si è confrontato col problema wagneriano. E nell'essere riuscito a farlo diventare un qualcosa d'altro, è un qualcosa estremamente italiano, estremamente inserito nel solco della storia dell'opera italiana, ma con un occhio al futuro che creerà un'eredità raccolta da tutti gli ultimi grandi operisti italiani, a partire da Puccini. Commissionata nel 1870 da Ismail Pascià, che divide Egitto, per celebrare l'apertura del canale di Suez, l'Aida diverrà l'opera più rappresentata di Verdi e forse la più wagneriana del suo repertorio. Bel risultato dopo 35 anni di carriera finire imitatore. Verso l'inizio degli anni Ottanta, dopo i grandi successi del Don Carlos e dell'Aida, torna a collaborare con Verdi un giovane con il quale il maestro aveva litigato alcuni anni prima, Arrigo Boito, un romanziere della scapigliatura milanese. Il nuovo sodalizio artistico accompagna Verdi fino agli ultimi anni e suggella i suoi due ultimi capolavori, l'Otello e il Falstaff. Qui, in queste due ultime opere, lui ha scritto le opere quasi senza arie. Non c'era più l'attesa di andare a sentire la romanza e poi il pubblico andava magari nei retropalchi a mangiare, a divertirsi e tornava quando c'era ora dell'altra aria. L'Otello non ha un'aria vera e propria, Otello. Ce l'ha Desdemona alla fine, ma l'aria vera e propria non gliel'ha messa. Veramente la genialità di Verdi può prendere il via e prendere il volo e arrivare fino al grandissimo traguardo del Falstaff, che non è più musica prettamente italiana, non è più melodramma romantico, belliniano, donizettiano, ormai è diventata un'altra cosa. È il 1893, Verdi ha 79 anni. A Boito scrive: nel tracciare il Falstaff, avete mai pensato alla cifra enorme dei miei anni? La cifra enorme dei miei anni. Il maestro sta per compiere 80 anni, eppure riuscirà ancora a stupire il mondo con Otello e Falstaff. Due creazioni magnifiche. Dopo anni di esperienze profonde, di nuove conoscenze artistiche, il suo linguaggio musicale è più ricco, mentre i recitativi dimostrano tutto il suo genio drammatico. Il debutto è alla Scala, il teatro che ha visto i suoi esordi e che ora lo vede tornare dopo 40 anni. Dopo gli ultimi successi, Milano gli offre la cittadinanza onoraria. I milanesi, del resto, lo adorano e gli organizzano persino un concerto a sorpresa sotto le finestre dell'Hotel Milan, dove soggiornerà fino alla fine. Da Sant'Agata a Milano, gli ultimi anni di Verdi sono anni di impegno civile, di generosità. Il maestro finanzia l'ospedale di Villanova d'Arda, accanto a Sant'Agata, e soprattutto la casa di riposo per gli anziani musicisti, in cui investe un terzo del suo patrimonio. È un suo vecchio sogno, che vive ancora oggi. Inaugurandola nel 1896, Verdi dichiara: è l'opera più bella che abbia mai fatto. Giuseppina Strepponi, compagna di una vita, se ne va il 14 novembre del 1897. Verdi le sopravvive 3 anni appena. Si spegne il 27 gennaio del 1901 dopo 6 giorni di agonia. Per i suoi funerali chiede una cerimonia modesta e senza musica. Sarà un silenzio molto breve. Mix 24, la storia. James Conlon per 10 anni ha diretto l'Opéra National de Paris e più di 250 esecuzioni al Metropolitan di New York. Cresciuto in una famiglia numerosa del Queens, ha scoperto la musica a 11 anni quando ha assistito a una rappresentazione della Traviata di Verdi. Ecco maestro, è stata una folgorazione? È cambiato la vita, difatti è stato l'inizio di... grande amore. È rimasto da questo momento in poi. Senta, lei è il direttore musicale della Los Angeles Orchestra. Ecco, ci può raccontare come si esegue Verdi in America? In America Verdi è stato sempre popolare, è ancora il caso oggi. Dunque, da quando era ragazzo, non credo che lui ha mai perso il fascino. Ma il pubblico americano percepisce Verdi in un modo diverso da quello italiano? Ma certo. E cioè? Che differenze c'è? Ma cioè, per l'Italia, per gli italiani che ha una comprensione per Verdi che è completa, culturale, della lingua, poi è una figura nazionale di un'importanza assoluta, certo. Assoluta non solo per gli americani, per il mondo intero è amato, amatissimo. Senta, Però è un'altra cosa, come un compositore che ha scritto della musica che ora è amata da quasi 200. Ecco, ma maestro, c'è una differenza fra le orchestre italiane e quelle americane nell'affrontare Verdi? E qual è la differenza principale? Non direi americane, direi tutte le orchestre del mondo ha un rapporto puramente musicale. Invece in Italia, e per le orchestre italiane, è un altro ambiente, è un rapporto molto personale che va al di là della musica. Questa è molto bella. Certo. Ecco, lei è un direttore che ha una grande passione per gli autori del Novecento, come Britt. La musica del Novecento la aiuta a vedere in qualche modo Verdi in un altro modo? Non lo so, Verdi per me è il colmo del tutto, è la sintesi di tutto, la sintesi. Assolutamente sintesi e poi lo zenith, il punto massimo. Ecco, ma lei che rapporto ha con l'Italia? Che c'è differenza, cioè sostanzialmente, che differenza c'è tra i teatri italiani e quelli americani quando lei dirige? Sente una differenza? Ma io sento una differenza in tutti i teatri dove dirigo, non solo in America, in Francia, in Germania. C'è una differenza culturale che è molto bella, è per questo che amo moltissimo mia vita, perché mi interessa moltissimo a dirigere a Mosca, e a Berlino, a Parigi e anche a Milano, a Roma. Dunque c'è una differenza. Ogni teatro ha la sua anima, insomma, e aiuta. Esattamente. Senta, Verdi è l'autore più eseguito al mondo e il melodramma è il bene culturale dell'umanità, però nasce in Italia. Ecco, lei crede che il nostro paese possa fare e debba fare di più per riscoprire la propria identità culturale? Ma certamente, ma non solo l'Italia deve fare, tutti i paesi devono fare. Noi in America che abbiamo importato, ereditato, diciamo, questa musica, ma anche noi non facciamo abbastanza per assicurare il futuro dei nostri figli, delle generazioni che seguono. È un patrimonio che ci dà una responsabilità di conservare, di dare questo al futuro. Dunque, ecco, non è solo l'Italia, certo, sono tutti. Ecco, ma qual è il valore più grande della musica per l'umanità? Essenzialmente non c'è stato mai una cultura senza musica. La musica è l'anima della società. Una società senza musica manca anima, è quasi impossibile. Ecco, le faccio un'ultima domanda, maestro. Ci racconta la sua famosa traviata con la grande René Fleming? Non sapevo che fosse famosa. È stato registrato, fatto tre recite al momento dell'inaugurazione del mio prima stagione a Los Angeles. Dunque è stato assolutamente il primo passo nel mio nuovo teatro, e che è stato fatto due giorni prima del Don Carlo. Dunque io ho cominciato i miei anni lì a Los Angeles proprio con Giuseppe Verdi. Grazie mille, maestro, la ringrazio tanto di questo ricordo. Grazie. Niente affatto, grazie a lei.